4 Mattino. Rieccoci qui, 7:21 minuti, 7 secondi e inizia il racconto della giornata, ma voglio cominciarlo da un comico. Lui era diventato igienista, tutto così, veniva nei bar, si rompeva i maroni, che fa con il suo la centrifuga, fa, volete che vi faccia la premuta di cauti? No, per favore, sto montando il bollo. Ho aspettato che andava in bagno per fare i suoi bisogni ed è partito lo scherzo. Sono andato là dove c'è la centrifuga, ho tolto il motorino della centrifuga e ho messo sul motorino della Ferrari, a Fettrino mi dame. Ha voluto fare lo smorone, bravissimo, e ha detto, te lo faccio vedere io come fa il succo il mirtillo. Sochmaker era questo il personaggio di Marco Della Noce sul palco di Zelig al fianco di Bisio, e c'erano gli sketch, la popolarità, i soldi, ma poi la vita cambia, gira, e Marco Della Noce, il suo meccanico della Ferrari con il cappuccino rosso in testa, si è ritrovato a dormire in macchina. E allora l'intervista al Corriere della Sera, la notizia nasce dal giorno, ormai oggi è su tutti i giornali, è il racconto dolente. È successo a me quello che capita a molti altri papà durante una separazione conflittuale. Sono rimasto senza lavoro, ho avuto il pignoramento dei miei compensi, lo sfratto dall'ufficiale giudiziario, quindi sono più di 20 giorni che non ho più una casa e non posso neanche più vedere i miei figli perché non ho un luogo dove portarli, come prevede la sentenza. Come è arrivato a questo pignoramento? Quanto doveva pagare per i suoi figli? Chiede sul Corriere della Sera Elisabetta Montanari. Io ero partito da 3.500 euro al mese per due bambini, poi, dopo i primi problemi economici, ho fatto ricorso ai giudici e adesso devo dare 1.500 euro al mese, ma la crisi ha colpito anche il mondo dello spettacolo. I miei lavori sono calati, facevo molte meno serate e non riuscivo mai a rispettare il mensile, così davo quello che potevo ogni mese, 600, 800, 1.200. Per questi motivi la madre dei miei figli ha chiesto il pignoramento dei miei compensi alla RAI e anche all'agenzia dove lavoravo. Per di più, quando hai la partita IVA, non tutelano il quinto dello stipendio, ma portano via tutto. Senza vergogna, senza vergogna. Anche se ci ho messo un po', ho iniziato a raccontare la mia storia. Anche per i papà che non possono più parlare. Oggi mi appoggio all'associazione Papà Separati in Lombardia. E così il racconto, questo lungo calvario, leggete l'intervista integrale perché merita, fino alla depressione. E io soffro di questa visibilità, vorrei che la gente cominciasse a capire che chi lavora nello spettacolo non è corona, ci sono quelli che guadagnano, ma poi noi non nascondiamo niente, siamo gente che lavora col cuore e quando si trova in difficoltà paga. Ho trovato molta solidarietà nelle persone comuni, forse perché li ho fatti ridere in passato. Sono 35 anni che faccio ridere, ma oggi non c'è più nessuno che mi faccia sorridere. Però vado avanti. I miei amici del bar mi hanno visto dormire in auto e mi hanno pagato una notte in albergo. Mi fanno mangiare gratis nel bar, ma un giorno, giuro, restituirò tutti i soldi. Non voglio essere un peso per nessuno. È una storia amara, amarissima. E ci sarà una scattata, una serata di solidarietà dei suoi amici, comici, attori, Stefano Chiodaroli, Francesco Rizzuto, Enzo Polidoro, Eugenio Chiocci stanno organizzando questa serata per raccogliere i fondi, ma non è una sola persona. La racconto oggi, la metto in apertura perché è la storia di tantissime persone. E allora passiamo a Etruria. Etruria e Banca Italia sono diventate le due questioni dei giornali. Iniziamo subito con le copertine. Hanno vinto gli evasori e il titolo di Libero. Coloro che pagano le tasse sono fessi, spiega il quotidiano diretto da Pietro Senaldi. Lo Stato non è riuscito a incasellare cartelle esattoriali per 817 miliardi, così le mette in vendita per appena 4. Questo era Libero. Il Fatto Quotidiano, tagli occulti, e su questo torniamo, alla sanità per dare la mancetta elettorale ai diciottenni, 2,7 miliardi tolti dalle regioni. Questa notizia torna indirettamente anche sul Corriere della Sera per la lamentela, l'atto d'accusa di Zaia, che sfotte anche il suo collega dell'Emilia Romagna dicendo meno male che lui concorda. E il Messaggero, Renzi Gentiloni, sale la tensione e... Caso Visco, leader PD, il premier sapeva tutto. Questo è il cuore della polemica. Il giornale Euro Berlusconi, rivincita del Cavaliere, l'ex premier torna al vertice del PPE a Bruxelles e la Merkel lo accoglie a braccia aperte. È l'unico argine ai populisti in Italia. Secondo altri giornali la sala era vuota. E beh, ma questo è il diverso parare che a noi piace molto. Le carte segrete di Monte Carlo. Il Tempo apre sull'inchiesta che riguarda Fini e la casa di Monte Carlo. Tugliani è latitante coi soldi di Corallo. Ambasciatore lo aiutò ad aprire conti a Monaco. La boccetta aveva ragione sui viaggi nel Principato. Ecco tutti i verbali dei protagonisti dell'affare. Ma continua la campagna del Tempo, come quella del Messaggero, contro il referendum in Lombardia. Ecco le 10 fake news che svelano la truffa del referendum. Chiacchiere e ampolle è il titolo dell'editoriale di Chiocci. L'arte ci crolla addosso il giorno. Perché? Perché una turista muore a Firenze, tragedia nella Basilica di Santa Croce, si stacca un capitello e uccide uno spagnolo sotto gli occhi della moglie. Mamma mia. La fine degli alibi, Avvenire, Il Fatto, il dialogo fra sordi porta allo scontro finale, governo, autonomia, e in Europa inizia a cadere il pilastro del primo approdo che pesa sull'Italia. Madrid via al commissariamento della Catalogna e sui migranti, primo sì dell'Unione Europea al cambio delle regole. Magari sarà così. Allora, apertura particolare del Foglio su di Salvatore Merlo. Si può cancellare la storia? Un grande affresco di Sironi alla Sapienza riporta alla luce i tabù dell'Italia di fronte alla parola fascismo. Questa è l'apertura, il soppalco si chiama tecnicamente, ma poi c'è il romanzo patriottico di Giuliano Ferrara. Dopo i tumulti della catalanità opulente, anarchica contro un giovane re che vuole tenersi la testa, dopo gli scacchi e il temporeggiare e l'indecisionismo, servirebbe un capitolo razionale per quel paese che ancora si chiama Spagna. La Stampa, soffocati dallo smog, a Torino è allarme. Vedete, oggi tutti diversi, sono belli. La Verità, la Vergine delle Banche, contro, ovviamente la Vergine sarebbe Maria Etruria, cioè Maria Elena Boschi. Repubblica, Banca Italia, rivolta nel PD, Prodi contro Renzi, maldestro. Il Sole 24 Ore, manovra marcia indietro sulla mini patrimoniale e non è l'unica. E poi qui ho il Corriere dello Sport che celebra Zeco, e pensate che il Corriere della Sera oggi si chiede: ma non è che Zeco e Mandžukić sono i più grandi attaccanti del mondo? È una bella domanda, per cui fermarci, andare al giornale radio e poi tornare con il racconto. Ciao papà, sei un bello. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister I. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Mattino. Ho fatto un'estate monacale, non sono uscito la sera a cena. E adesso come mi trovate? Oggi ho chiesto a una signora quanti anni mi dà. Vabbè, non ve lo dico perché. Ciao, vi auguro di arrivare alla mia età nella mia forma mentale e fisica. Auguri. Euro Silvio, ieri discorso in Europa. Entriamo dunque nella guerriglia del giorno. Sembra veramente un romanzo, un romanzo di quelli francesi, un feuilleton, sembra Bellamy, cioè oggi volano stracci su questa vicenda di Banca Italia ed è persino divertente leggere la differenza del retroscena. E siccome siamo come in un anno bisestile, Senaldi sul Libero difende Renzi, e quindi comincio con questo colpo di scena. Il direttore di Libero dice: stavolta ha ragione Renzi, pagina 5. Il segretario del PD ha infatti fatto presentare al suo partito una mozione parlamentare che chiede al governo di non confermare Ignazio Visco alla prossima scadenza e alla guida di Banca Italia. Tanto è bastato per far gridare al colpo di Stato al gota del potere italiano, che da sempre gestisce le poltrone più importanti della Repubblica come se fossero di sua proprietà e senza tenere minimamente in conto le opinioni del popolo bue e spesso raggirato. Il governo Gentiloni si è indispettito, il Quirinale si è infuriato, i ministri sono inorriditi, ma ha ragione lui. Libero! Libero! E invece iniziamo il racconto, perché qui è veramente bella. Cioè, sul Corriere della Sera ci sono due pezzi che danno due versioni contrastanti. Il governo sapeva o non sapeva? Sapeva, dice Renzi. I retroscena ieri dicono che non sapeva, E adesso si scopre che un po' sapeva, un po' no, nel senso che chi doveva trasmettere informazioni a Gentiloni lo ha fatta proprio last minute. E chi era? La Finocchiaro, il retroscena di Francesco Verderami, parte addirittura, è molto bello, da una telefonata in aula. E sentite, il governo sapeva della mozione, ha detto il capo del PD, scrive Verderami, e ha detto il vero. Peccato che Gentiloni non conoscesse il testo. È stato il centrista Lupi a informarlo dell'imminente patatracca alla Camera. E in quel momento ha avuto inizio una storia vissuta nelle vesti di testimone da un esponente dell'opposizione, malsenato. Nelle stesse ore, infatti, si sta svolgendo la conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama. Bisognava decidere il calendario dell'aula di Montecitorio per la legge elettorale e nell'anticamera di Grasso c'erano i grillini a protestare. Nella sala grande c'era concitazione, rumore, casino. Forse per questo la Finocchiaro, ministro per i rapporti del Parlamento, scrive Verderami su Corriere della Sera, non aveva avvertito la vibrazione del suo cellulare. Pensate. Così il capogruppo dell'opposizione aveva attirato la sua attenzione. Ti cercano sul display, guarda. C'era scritto Gentiloni sul telefono. Impossibile per i testimoni non origliare la conversazione, e te credo. Allora scrive Verderami. Paolo, ti richiamo fra un quarto d'ora. Sono al Senato e... Va bene, dai, dimmi. Pausa. Qual è il problema? Della mozione se ne stanno occupando Ettore e Maria Elena, cioè la Boschi e Rosato, il capogruppo del PD. Per noi lì in aula c'è Baretta, il sottosegretario all'economia. Pausa. Va bene, mandami il testo. Pausa. Che vuol dire che hai solo il dispositivo? E il resto dov'è? Pausa. Come non l'avete? Aspetta, sento Pierpaolo, cioè Baretta. La Finocchiaro chiama il sottosegretario all'economia perché esordiva dicendo: Pierpaolo, hai chiesto il testo? Come non te l'hanno dato? Arrivo. Questa è la manfrina meravigliosa che è avvenuta in aula. Dicevo che sembra un film perché la Meli, nel suo retroscena, che ovviamente dà la versione renziana, smentisce tutto. Renzi racconta che si erano chiusi in una stanza, pezzo di Maria Teresa Meli, con Rosato per limare la mozione, e Paolo, che poi ha parlato con me quando ero con il treno a Civita Castellana, e Renzi che ricorda, è stato avvisato della mozione proprio da chi? Dalla Boschi, perché la Finocchiaro che stava parlando con Rosato non lo aveva ancora avvertito. La Boschi preferisce tacere ufficialmente, ma gli amici consegna tutta la sua amarezza. È più facile attaccare il giglio magico che i poteri forti. E a proposito di rapporti interrotti, racconta ancora Verderami, Corriere, pagina 5, c'è il problema di Veltroni. Lui ha difeso Banca Italia, Renzi ha retwittato il cinguettio ostile di Orfini. Comunque, cari compagni, o fate la sinistra o fate i portavoci dei salotti buoni. Le due cose insieme funzionano poco. E poi ai suoi Renzi spiega: Walter ha detto che non bisogna aver paura della parola sinistra, e poi difende Banca Italia, i cui errori sono sotto gli occhi di tutti. Quindi vedete che è uno scenario di guerra e che riguarda cose importanti. La vigilanza, le carte, ci sono su diversi giornali ed escono fuori le lettere di Visco sulla crisi di Etruria. Questo è il pezzo di Fiorenza Sarzanini, sempre sul Corriere della Sera, fra le carte che il governatore, ne parlavamo ieri, con una parlamentare di 5 Stelle ha consegnato, io dicevo usciranno, infatti sono uscite, ci sono tutte le lettere della vigilanza contro il gruppo dirigente di Etruria. Ma attenzione, Repubblica ha un altro scoop che in questo caso demolisce la versione della Finocchiaro, quindi io dico scegliete voi perché sembra una telenovela, cioè Repubblica, Ciriaco, un vero scoop, Tommaso Ciriaco, pagina 3, riesce a pubblicare la chattina che la Finocchiaro ha con i parlamentari del PD, da cui è vero esce fuori un lunghissimo lavoro di limatura, vai, togli le proteste dei deputati, Meloni è un deputato del PD, io così non la voto, ma cos'è sta cazzata? La Finocchiaro, il testo è stato modificato, è stata una vera impresa, alle 17.08, Sandra Zampa, Rosato è accecato al renzismo, un'altra parlamentare del PD, Prodiana, corriamo dietro ai forcaioli a 5 Stelle perché abbiamo paura. 17.10, Anna Finocchiaro, è stata accettata anche un'ulteriore riformulazione proposta dal governo e che non era stata accettata prima da Rosato, fidatevi, dice lei, la ministra dei rapporti col Parlamento. Della Ringa, un ex sottosegretario, anche lui del PD. Apprezzo lo sforzo, ma non è stato sufficiente per evitare un errore che il Parlamento e noi abbiamo fatto in un momento molto delicato per le istituzioni e per il sistema bancario. Anna Finocchiaro, proponi un'alternativa, io avevo una mozione inaccettabile e l'ho resa accettabile per conto del governo con il confronto di Gentiloni e di Padoan. Attenzione, perché qui gli stracci volano, quindi tutti sapevano, emerge da questa chat il lavorio incredibile che il governo e il Partito Democratico hanno fatto per limitare il loro scontro, e poi alla fine la frittata, tutti ne sono usciti, mi sembra, con le ossa rotte. Su Repubblica Orfini difende la sua linea. La sinistra che difende i salotti buoni ci allontana dal sentimento popolare, ma poi ci sono tanti giornali che sono totalmente contro il PD. Partiamo da Belpietro. A una tizia che abbia il padre multato dalla Banca d'Italia dovrebbe essere impedito, lì è La Verità, pagina 1, impedito di decidere del prossimo governatore della Banca d'Italia. E invece no, a Maria Elena Boschi, figlia di Pierluigi, ex vicepresidente della Popolare dell'Etruria, fino al giorno in cui l'istituto di Arezzo è stato commissariato dal ministro dell'economia su suggerimento della Banca d'Italia, non solo è consentito di mettere becco su chi debba guidare Via Nazionale, ma le è pure permesso di giubilare colui che, seppur indirettamente, contro il padre ha avviato una serie di iniziative, ultime delle quali una causa di risarcimento danni per 520 milioni di euro. Così scrive il direttore della Verità, che è in contrapposizione al direttore Libero, quindi i giornali di destra si dividono, meraviglia del grande Big Bang. E il Fatto Quotidiano è assolutamente sulla stessa linea di Belpietro, con un fondo caustico di Marco Travaglio, e ne leggo solo due righe. Che la vigilanza di Banca Italia non abbia vigilato sui crack lo sanno anche i bancomat. Che Ignazio Visco ha detto tutto va bene, madama la marchesa, in un paese serio non sarebbe più governatore da un pezzo, non ci sono dubbi. Ma che a chiedere la sua testa sia il duo Renzi e Boschi sarebbe una barzelletta se non fosse uno scandalo. Chi ha lasciato marcire per anni la crisi bancaria senza muovere un dito per non turbare l'ottimismo obbligatorio fino al 4 dicembre 2016 al referendum, contribuendo a far lievitare il conto di quel crack fino a 60 e passa miliardi, chi è stato? Beh, il governo Renzi-Boschi. Sono poi 90 righe di fiele, però colpisce anche l'intervista sul Fatto a pagina 3 di Miguel Gotor, che dice: io metto in fila i fatti, il padre della Boschi ha subito la sanzione da parte di Banca Italia e del governatore Ignazio Visco. Adesso sappiamo che il testo della mozione contro Visco è stato presentato in segreto e la Boschi sapeva, perché ha dei conti da regolare. Viene il sospetto che ci troviamo di fronte a una ritorsione privata della famiglia Boschi contro il governatore di Banca d'Italia. Allora vi ho dato un po' tutte le voci, ma resta l'ultimo problema. Che cosa accadrà di Visco? Il Sole 24 Ore in prima pagina racconta di un appello di economisti e dentro a pagina 2 c'è l'elenco, si tratta di nomi autorevolissimi. Via Nazionale, la politica faccia un passo indietro, l'appello di 46 economisti per difendere l'indipendenza di Banca d'Italia. Ma questa indipendenza comporterà la permanenza di Visco? Questo è il grande dilemma che non si risolve ora e si risolverà nelle prossime ore. Strade, in diretta. Non trovi che è splendido? Sì, Bergen di notte è bellissima. No, la macchina in doppia fila, la sua posizione naturale. Mattino. E siamo arrivati al money. Dove sei, Gordon? Dove sei, Michael Douglas? Tu che ci insegni che cosa bisogna fare coi soldi? Ricordate, il denaro non dorme mai. E allora, manovra marcia indietro sulla mini patrimoniale. È una cosa meravigliosa che la manovra non si è ancora depositata e già cambia, e forse per questo non viene depositata. Ma le invettive di Oscar Giannino hanno inciso nel segno, perché arriva lo stop del governo al bollo sulle polizze vita. Vi ricordate il 2 per 1000? Ne abbiamo parlato ieri, che era stato annunciato, doveva dare un gettito di 800 milioni di euro, e invece c'è il cambio. Il Sole 24 Ore, pagina 3. Marco Mobili e Marco Rogari: accantonata nel giro di 24 ore l'introduzione di una mini patrimoniale del 2 per 1000 sulle polizze vita rivalutabili a capitale garantito. Le preoccupazioni suscitate sui mercati, fra gli operatori e soprattutto fra gli investitori, ovvero i diretti interessati della nuova tassa occulta messa a punto dai tecnici di Palazzo Chigi e dal Ministero dell'Economia, hanno provocato un dietro front. Beh, ma viva la libertà di stampa, vero Gordon? Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Sì, però vorrei dire che c'è anche un altro niente, ed è niente pensione. Perché vi ricordate l'app social, quella che si diceva avrebbe aiutato coloro che non riuscivano ad accedere all'app normale, quella che bisogna pagarsi con il mutuo facendo anche l'assicurazione della vita? Bene, sulla stampa, Paolo Baroni, pagina 6, un pezzo tutto da leggere, ci racconta: tagliola dell'INPS sull'app sociale, respinte 2 domande su 3. Cioè, la puoi chiedere, ma poi non te la danno. L'INPS alza definitivamente il velo sull'app sociale e fa sapere che 2 domande su 3 non sono state accettate, cioè da lei. Addirittura, scrive sempre Paolo Baroni sulla stampa, addirittura per le istanze avanzate dai cosiddetti lavoratori precoci si sfonda il tetto del 70%. I precoci sono quelli che lavorano da quando erano ragazzini all'asilo. Come ha spiegato ieri nel corso di un'audizione alla Camera il direttore generale Gabriella De Michele, le domande per l'APE sociale ricevute dall'ente di previdenza sono state 39.721 e di queste 13.601 sono state accolte e 25.895 sono state respinte. 425 sono in fase di istruttoria per carenza di documentazione. Per i lavoratori precoci, invece, a fronte di 26.251 domande, 7.356 sono state respinte. Cioè, la puoi chiedere, ma poi non te la danno. I tagli alla sanità. Da Corriere da Fatto devo comporvi una specie di pezzo istantaneo. Fatto, pagina 8. Manovra, tagli, favori e condoni. Il pezzo di apertura della pagina, non firmato, ma sono due giornalisti che lo curano, Luciano Cesasa e Carlo Di Foggia. Ebbene, sentite. Il governo Gentiloni ha restituito 270 milioni di 400 che Renzi aveva sottratto alle regioni con la manovra precedente. Quindi il saldo è che mancano ancora centinaia di milioni. Il fiorentino ha finanziato le misure con tagli che valgono 36 miliardi nel triennio 2018-2019. Ogni anno ha la sua pena, ma le regioni sono quasi in ginocchio. Sulla sanità manca il finanziamento per il rinnovo del contratto agli statali. E sul Corriere della Sera questa megataglio diventa strumento di conflitto fra Zaia e Maroni. E, no, scusate, fra Zaia e Maroni e il governatore dell'Emilia Romagna. Maroni sceglie toni bassi anche in relazione ai 3,5 milioni di euro che il governo addebiterà alla Lombardia per il compenso degli agenti impegnati ai seggi di domenica. Era stato Luca Zaia per il Veneto a sollevare la polemica, ma il governatore lombardo ha abbassato i toni. Il giorno dopo smorza il caso, tentando anzi di volgerlo a proprio favore. Non è una sorpresa, sapevamo che tutti gli oneri erano a carico delle regioni e li avevamo già messi in bilancio. È una cosa positiva, se la sicurezza è a carico nostro vuol dire che di questo dobbiamo occuparci. Però ecco il punto. Ho appena saputo, aggiunge Maroni, che nella manovra il governo prevede 450 milioni di euro in meno per la sanità lombarda. Se l'esito è l'accordo con il governo e un taglio da 230 milioni per l'Emilia Romagna, Bonaccini poteva fare a meno di quell'accordo. Come dire, ti sei fatto tagliare i soldi e hai fatto un accordo in cui ti fai tagliare tanti soldi. Mentre invece la Lombardia vuole negoziare con il governo anche per impedire questo taglio di milioni che è stato deciso dal governo Gentiloni. Allora avete capito come sono complicate le cose? Andiamo alla mitragliata. Soffrite di emicrania? Una pallottola d'argento ucciderà l'emicrania. Sì, Antonio Ricchio, un'intervista sulla Verità, il professor Tedeschi, specialista italiano che ricerca sulla malattia soluzioni diverse e innovative, ha trovato questo meraviglioso rimedio. L'anticorpo viene iniettato letteralmente con una pallottola d'argento che entra in soluzione, ovviamente non è una pallottola sparata con la pistola, ma con una speciale, diciamo, super siringa. Addio mal di testa. Un'equipe di ricercatori sta mettendo a punto gli anticorpi monoclonali in grado di arginare il dolore che colpisce, pensate, 5 milioni di italiani. Allora, arriva l'obbligo polizza assicurativa per gli avvocati. Voi dite, quanti di noi riguarda questo provvedimento? Bene, immaginate, secondo Digilex sono 312.000 in Italia quelli che ora dovranno assicurarsi e viene considerato un balzello. C'è anche una statistica sul giornale a pagina 17 su quanti sono gli avvocati per regione. Ieri abbiamo fatto un po' arrabbiare con le multe sulla patente, adesso scopriamo la regione che ha più avvocati, pensate, la Lombardia, e ne ha circa 40.000. Gianfranco Rotondi, ve lo ricordate, sul giornale a pagina 10, ha vinto oggi, cioè ieri, ieri per chi legge, ha vinto la causa per riottenere il simbolo dello scudo crociato che era in dotazione, tant'è vero lo sta usando in queste elezioni siciliane, da Cesa. Quindi è una guerra contesa, ma è l'ultimo round, sono 10 anni che combattono su questa cosa, non lo so. Le lettere d'amore di Obama sulla stampa, belle, poetiche, ma la cosa per cui ve le voglio citare è un passaggio, le ha pubblicate questa ragazza bianca che Obama bava al college, dice: da una settimana non riesco neanche a pagare il francobollo per spedire il mio curriculum, e quello dopo aver fatto respingere un assegno per affittare una macchina da scrivere. Non aveva soldi, era in bolletta, è diventato il presidente degli Stati Uniti. Beh, c'è speranza per tutti. Ci vediamo per Cani e Gatti fra poco. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.